Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Attendo il mio sogno con ansia e emozione, poi applaudo e mi sbraccio per la mia formazione. È la prima giornata e la mia fedeltà è premiata da un senso di gran volontà. Ritorna il mio eroe ed illumina il giorno. Dei miei guai per un poco si sfuma il contorno. Egli è grazia, armonia, che esalta lo stadio, mi riporta ai miei giorni e di orgoglio mi irradio. Nainggolan, dentro per Totti, Totti con Hart, Totti! Che azione! Scrive la storia d'esterno destro, 38 anni e 3 giorni! Nessuno alla sua età aveva mai fatto un gol in Champions League! Butta giù il monumento di Ryan Giggs e lo fa a Manchester, 1-1! Signori, qua o si è tifosi della Roma o si è solo sportivi, c'è da applaudire a questa azione della squadra di Garcia. Tutto in verticale, tutto di prima, guardate. Tanto per cambiare, un altro record battuto, il calciatore meno giovane che ha fatto gol nella storia della Champions, hai battuto Ryan Giggs, non mi dire che non eri a conoscenza di questo record. No, sinceramente non ci pensavo, come ho sempre detto, penso più alla squadra che a me stesso, ma è sempre stato il mio forte. Poi è normale che quando la squadra ti aiuta a fare gol arrivano anche i record personali, ma quelli passano in secondo piano. C'è Keita che avanza, palla al piede, va a servire in angolo, di prima intenzione per Totti, posizione regolare, Totti, Totti, Totti, Totti! Francesco Totti, il pareggio della Roma, esattamente al minuto 23 nel corso del primo tempo cambia il parziale con l'esterno del terzo destro, cucchiaio scavato alle spalle di Hart, nulla da fare per l'estremo difensore imprese, il campione, il cui viale non conosce tramonto, mette in porta il pallone dell'1-1, il fuoriclasse romanista, il numero 10, ancora lui a marcare il gol in Coppa dei Campioni. Che dire, quando parliamo del capitano si può dire solo cosa banale, perché già ci sono detti tante cose. Mi fa tanto piacere che lui ha segnato oggi, avevo letto che forse mancava un po' questa cosa di segnare in Inghilterra, è fatto, non solo è importante nel gioco della squadra ma è anche bene sul piano fisico, l'abbiamo visto attaccare a profondità sul gol e dopo il suo talento ha fatto la differenza davanti il portiere. Attenzione, Nainggolan, palla in verticale per Totti, l'uscita di Hart, Totti, Totti, rete, rete, rete, a 38 anni della leggenda della Champions, ma nessuno ha segnato a questa età il pari della Roma. Vabbè, poi c'è anche chi scrive un sms, pronti via, andate a cagare voi e Totti, quel mafioso analfabeta è viziato. Ma perché? Perché i tifosi sono così. I tifosi invece, gli sportivi sono diversi e a me viene voglia, dopo aver visto la partita della Roma, dopo aver letto anche i giornali inglesi, Eternal Footballer, così definito Francesco Totti dal Sun, che ha usato un titolo musicale, Totti Eclipse of the Heart, omaggio a Bonnie Tyler, dopo aver letto Tweet Revenge. Sapete di quel tweet? Ma Totti, mai segnato in Inghilterra, bravi. Tanto inopportuno quanto irrispettoso nei confronti di un uomo che ferma il traffico a Roma, scrive il Telegraph. Vabbè, comunque, io ve la voglio buttare lì, ma a me non piacciono i paragoni epocali, confronti tra epoche diverse, però è una domanda che mi intriga e quindi io ve la faccio e poi provo anche a trovare una risposta. Totti è il più forte giocatore italiano di sempre, secondo voi? 800 24 00 24, il numero verde. Mi sto convincendo che sia così, cioè secondo me sì, secondo me è il più forte giocatore italiano di sempre. Poi a questa Eurosettimana stavamo chiedendo la misura, una misura più precisa delle due dominatrici del nostro campionato. Quanto alla misura della Roma l'abbiamo trovata. La Roma torna dalla casa dei campioni d'Inghilterra, dalla casa del Manchester City, quasi arrabbiata per ciò che poteva essere più di un pareggio. Adesso aspettiamo la misura della Juventus questa sera, nella partita che è chiaramente quella di cartello nella serata di Champions League. Si gioca al Calderón contro i campioni di Spagna, vice campioni d'Europa, dell'Atletico Madrid. Tra l'altro, notizia degli ultimi minuti, poi chiederemo anche conferma: Cerci dovrebbe giocare al posto di Gabi, che non ce la fa, quindi dovremmo vedere subito in campo Cerci. Questa è una suggestione in più. È chiaro che la Juventus gioca in Europa in questo momento con una pressione diversa rispetto alla Roma. È chiaro anche che la Roma, dopo il risultato di ieri sera, deve fare un pensiero al passaggio del turno nel girone più difficile che c'è in Champions, anche perché sull'altro campo abbiamo visto a Mosca, abbiamo visto il Bayern di Monaco fare una fatica maledetta per battere su rigore di Müller quella Zesca o CSKA che la Roma ha asfaltato due settimane fa. Poi abbiamo visto molte altre fare un sacco di fatiche, poi ne parliamo. Insomma, oggi non vedo in giro per l'Europa molto di meglio rispetto alla Roma. Certo, c'è il Paris Saint-Germain che batte in una partita piena di gol, uno anche di Verratti, di testa peraltro, su corner di Motta, se non ricordo male, su corner di Motta, quindi un gol made in Italy. Batte 3-2 un Barcellona un po' depresso, solo 1-0 alla Poel nella prima partita di Champions League. Un Barcellona che in Europa stenta a trovare comunque il passo. Non vedo in giro per l'Europa in questo momento molto di meglio rispetto alla Roma che ho visto ieri sera. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudio Schiattone in redazione. Ne parliamo? 800 24 00 24 è il numero verde. Pardo arriva più tardi, verso le 3. Convocati. Abbiamo l'obiettivo di fare il nostro meglio, cercare di passare il girone, sapendo che non è semplice, perché ci sono due squadre come Bayern Monaco e Manchester City che sono alla nostra altezza, se non di più. Però giocando in questa maniera possiamo mettere in difficoltà chiunque. Ci siamo mostrati all'altezza di questo gruppo, sono fiero dei miei giocatori perché è successo quello che abbiamo previsto, che abbiamo avuto i nostri momenti, forse abbiamo avuto anche le più belle occasioni di gol e dopo abbiamo sofferto come anche era previsto negli ultimi 10 minuti, perché a centrocampo giocano sempre gli stessi da settimane e anche in difesa centrale. Allora sì, io sono molto soddisfatto di aver visto una Roma che ha giocato con grande personalità. Allora, come detto, aspettando Pardo che arriva dopo, ma convocando subito tutti voi all'800 24 00 24, io al direttore Paolo Liguori la domanda la faccio a bruciapelo. Ciao direttore. Buon pomeriggio, sì, buon pomeriggio. Allora, 235 gol in Serie A, più anziano marcatore della storia della Champions League, quello che il Telegraph definisce l'uomo che ferma il traffico a Roma, è il più forte giocatore italiano di sempre? Beh... Sai, è il più forte giocatore italiano di sempre. Per me sì, però poi ce ne sono altri e quindi sai che ognuno ha i suoi gusti. Però certo, gli altri sono finiti, lui continua. Sicuramente ti posso dire questo. Sicuramente lui ha fatto capire che non esistono giocatori vecchi e giocatori giovani, esistono giocatori forti e giocatori scarsi. Certamente. Se uno è forte, se è scarso è scarso. È il più forte giocatore italiano di sempre, sì. Ci metterei, guarda, voglio essere equanime, ci metterei Maldini insieme, perché io penso che Totti e Maldini siano i più forti giocatori italiani insieme. Sì, ci sta. Perché poi... la continuità di rendimento è un fattore, certo, del rendimento, quindi è chiaro che ci sono i Baggio, ci sono i Del Piero, è chiaro che ci sono i Meazza. E Rivera, ma poi sì, non è italiano, sì, sì. Rivera, i Meazza, eccetera. Però è chiaro che il fattore qualità e il fattore rendimento si sposano, direi Totti e Maldini. Sì, ma poi è chiaro che i paragoni epocali sono sempre un giochino, ma sì, questo guarda, è un giochino, questo è un giochino. Difensore, No, ma poi paragoni tra epoche diverse non hanno senso, però è solo giusto una suggestione che oggi ci sta, oggi nel giorno in cui la Roma, dicevo prima, torna dalla casa dei campioni d'Inghilterra quasi un po' arrabbiata. Sì, a me è un po' arrabbiata la partita ieri sera, chi l'ha vista insomma la può giudicare, la Roma ha avuto la partita in mano, devo dire geniale anche Rudy Garcia e scarso, molto scarso Pellegrini, ci ha messo 50 minuti per capire che non aveva il centrocampo. Certamente, mano, certamente. Poi ha messo dentro Milne nel Lampard, la partita è un po' cambiata, ma 50 minuti per capire che questi ti tenevano in mano il centrocampo. Garcia gliel'ha preso in mano in 5 minuti e aveva pure subito un rigore, quindi devo dire anche la gerarchia degli allenatori va un po' riscritta. Certo, sì, sì, no, Mourinho ma... l'avrebbe capito in 10 minuti, Ancelotti in 5. Garcia però la sua storia la sta scrivendo da solo, è proprio bravo, Fossi un presidente con i soldi in tasca, la coppia Garcia-Sabatini me la porterei a casa subito. Ma sai, questo è un po' anche un problema, perché Garcia si trova molto bene a Roma, tra l'altro ha trovato l'amore a Roma, la squadra dell'amore, sì. Con la nonna, Garcia con la nuova fidanzata, Totti con i tifosi, la Roma è una squadra dell'amore, no? Praticamente sabato gli hanno fatto il regalo di grandi compagni, ieri lui l'ha fatta la squadra, no? Quindi vedi che razza di... quest'anno guarda, non ci sono tensioni, non ci sono i soliti toni... collerici, le solite cose esagerate che sempre ci sono state a Roma. Vedo una serenità, uno spirito di squadra veramente forte. È vero, Garcia ha dato molto, però ha avuto anche molto, perché guarda, una città come Roma, quando dai e vieni apprezzato, restituisce molto, certamente. Lo sanno in tanti questo. Certamente, ma poi ha trovato una società che si sta strutturando, ha trovato una società anche coi quattrini, gli hanno comprati i giocatori, quindi e lui è stato molto bravo nel fare tutto questo. Adesso è pace, amore e fantasia. Anche Sabatini, anche l'osservazione che hai fatto te. È vero che se un grande presidente che vuole spendere, che sia arabo, spagnolo o anche russo, via Sabatini è una fortuna, ma un ambiente come Roma, dove ha trovato questa congiunzione, una squadra da rifare, pallotta agli americani che puntano allo stadio, che vogliono arrivare, che vogliono vincere, non ce ne sono tante altre possibilità in Italia per Sabatini. Io penso che anche lui abbia fatto bene i suoi calcoli. Sì, e poi è comunque un dirigente che ti fa anche guadagnare dei quattrini, il che non è male nella gestione di oggi del calcio italiano. La cosa migliore che ha fatto è come ha venduto, non come ha comprato. Sì. Ha comprato bravi giocatori, ma ha venduto difensori minimo 30-35 milioni che insomma, io guardo un difensore per 30-35 lo vendo per principio, quindi quel discorso su Benazia non mi sembra pretestuoso. Ma prima, l'anno prima Marquinhos ha venduto due difensori, uno a 35 e uno a 30, cioè siamo proprio ai limiti. Poi voglio dire, tu hai visto anche la partita ieri e ci sono a Roma quelli nostalgici di Benatia e secondo me sono già scomparsi, perché ha comprato questo Manolas. Bravissimo Manolas. Io dico che vale Benatia, poi vedremo. Poi vediamo, è molto giovane, 23 anni, però se è questo nel giro di un paio d'anni, allora parliamo di alto livello, parliamo di Thiago Silva, parliamo di questi giocatori. Quelli rischiamo di perderli, perché mentre Garcia si può fare i suoi calcoli, Sabatini si può fare i suoi calcoli, Totti e De Rossi se li sono fatti da molti anni, questi giocatori onestamente possono pure farsi dei calcoli economici, non ci troverei niente di strano, comunque il mondo va così. Senti, direttore, pace e amore, mi dicevi a Roma poche pressioni in questo momento, allora in Champions League la Roma di pressione addosso non ne ha, può giocarsi una serie di grandi partite senza che nessuno le chieda la luna, magari in campionato qualche pressione in più ce l'avrà e magari ce l'avrà a Torino in una partita che arriva così presto da essere inutile, però a questa settimana stiamo chiedendo la dimensione delle uniche due squadre in grado di vincere lo scudetto. Però pensa che bella partita, per la prima volta si gioca appunto in una dimensione non drammatica, perché è presto, nessuna delle due si compromette, perché nessuna deve recuperare, sono a pari punti al massimo dei punti. Poi è il meglio del calcio italiano, conclamato, il meglio della fantasia del rock, del calcio rock che ti dà la Roma, e il meglio della struttura e del calcio potente che ti dà la Juventus. Si confronta la grande bellezza del calcio italiano a Torino, e perché uno non se la deve godere? Veramente anche in questo caso è uno Juve-Roma differente da tutti gli altri che mi ricordo, no? Sì, sicuramente poi ci saranno quelli che non sono contenti, ci saranno quelli domenica. Che ma chi se ne frega, poi alla fine uno vince, uno perde oppure pareggiano. Però vediamo, siamo sicuri che stiamo guardando il meglio che c'è. Un'ultima cosa ti voglio chiedere, posso? che non riguarda né la Juve né la Roma, riguarda un argomento che secondo me agli ascoltatori interessa relativamente, ai presidenti abbastanza, questa storia della tassa 1-3% degli incassi sulla sicurezza negli stadi, tu cosa ne pensi di questo provvedimento, di questo decreto che andrà verso l'approvazione? Sì, no, vediamo. Beh, insomma, penso che sia una cosa che appesantisce il calcio, ma inevitabile, tutti siamo tartassati, siamo tutti convocati, siamo tutti tartassati, ed è normale che se le società vogliono un po' più di sicurezza e di protezione devono pagare un po' di più. Devo dire che a questo punto però in cambio bisognerebbe sbloccare dappertutto la legge sugli stadi, perché allora tu mi dici che la tassa ha un termine, ed ha un termine che è quello entro cui io riesco a costruire lo stadio mio. Poi la sicurezza me l'amministro pagando la tassa, ma anche in un'altra maniera. Sono d'accordo. Il fatto che le società siano senza stadi civili, hai visto ieri sera le piante? Sì, no? Ma io guarda, comunque sono sempre molto pessimista sull'idea di vedere nuovi stadi in Italia, quello di Roma compreso. Questo pessimismo spero che me lo tolgano i fatti, nel frattempo me lo tengo. Certo, pure io sono come te, sono pessimista e mi dispiace, perché noi non potremo mai avere un vero calcio italiano se non abbiamo degli stadi italiani alla stessa degli altri. Guarda, lo penso davvero, cioè bisogna poter andare allo stadio come vanno gli altri. E guarda che alcuni di questi stadi sono vecchissimi nel mondo, non è che Anfield Road, lo stadio del Liverpool, sia stato costruito ex novo, è stato ristrutturato e rifatto, ma è uno stadio di proprietà che ha una storia. E poi ci sono quelli nuovi, ci sono quelli medi come il Nou Camp, ci sono quelli nuovissimi come i tedeschi, però quelli che stanno nascendo in Francia. I nostri sono terribili, sono terribili. I nostri sono dei porcili e io continuo a tenere il mio pessimismo cupo sull'idea di vedere qualcosa di migliore in Italia. I stadi sono dei porcili e noi dentro gli stadi prima o poi ci trasformiamo in maiali. Beh, certo, come perché io credo che l'ambiente in qualche modo possa condizionare. Questo è un discorso un po' filosofico, però credo che l'ambiente possa condizionare chi lo frequenta. Ragione, d'accordo. Grazie direttore. Grazie a te. Grazie. Ciao Paolo Liguori. Ciao. Ciao. 800 24 0024 è il numero verde. Abbiamo la borsa e poi torniamo. Questa Champions, queste partite, giocare qui a Manchester City contro un club che è uno dei più ricchi del mondo è una cosa fantastica. I ragazzi lo meritano perché hanno lavorato tanto bene l'anno scorso e quest'anno abbiamo visto già dall'inizio stagione, perché abbiamo vinto tutto, che lo spirito c'è, lo spirito di squadra, e con questa cosa possiamo fare grandi cose e andiamo avanti così. Adesso bisogna recuperare perché c'è una piccola gara domenica. Scatenato. Tutti convocati. E un po' di Twitter. Ida, ad esempio, non capisco perché. Ida, se mi chiama, ne parliamo. Certo che con Totti, il miglior giocatore italiano, oggi ha affossato la trasmissione. Perché? Mi sembra di non aver detto un'eresia. Vi chiedo anche un'opinione. Insomma, 235 gol in Serie A. Una carriera come quella che ha fatto, un titolo mondiale, gli scudetti con la Roma. Anche il fatto di essere rimasto per tutta la carriera a Roma forse un limite, però non capisco perché non domandarselo quantomeno. Ma chissà cosa ne pensa il presidente Ferrero, secondo me è d'accordo. Totti immenso e sublime, ne scrive Massimo su Twitter. Ieri, come tante altre volte, ma Baggio rimane quello che più mi ha emozionato, che più mi manca. Anche questo è un diritto, ovviamente. Baggio, Del Piero, Totti, Maldini, andiamo più indietro, Meazza, Zoff, Rivera, Riva, abbiamo avuto un sacco di campioni. Non condivido invece, o quantomeno non condivido fino in fondo, questo tweet di Dozzi Fumi. Totti campione vero, lo sputo a Paulsen, lo sappiamo, il calcione a Balotelli, sappiamo anche questo, un campione non perde mai la testa. Fate le tue risate, li vede tutti seri. In teoria vero, allora anche Zidane non trattasi di campione? Opinabile. Alessandro, Milano, Leonardo, Vicenza, Giuseppe Perugia, 800 24 00 24. Mi interessa, questa è una suggestione, mi interessa però parlare della Roma e della proiezione della Juventus sulla serata di Madrid. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie. Allora, no, innanzitutto per quanto riguarda Totti, credo che, non so se tecnicamente lo possiamo definire il giocatore più forte, sicuramente il giocatore più intelligente, quello che ha avuto la capacità a 38 anni con delle prestazioni di altissimo livello. Come diceva prima Paolo Liguori, la continuità e la costanza di rendimento ad oggi sicuramente ci dà la possibilità di definire Totti il miglior giocatore. Sa cosa? Che io ammiro molto in Totti il fatto che è uno che ama veramente quello che fa. La stessa cosa non mi sento di poter dire, ad esempio, per giocatori come Cassano, come Balotelli. Qualche volta ti danno l'impressione, pur nel loro immenso talento, un loro grandissimo talento, di giocare per farti un piacere, di non crederci fino in fondo. Se uno arriva a 38 anni comunque a questo livello, vuol dire che è uno che si fa un mazzo così, vuol dire che è uno che ci tiene, vuol dire che vuole arrivare lì perché ci mette del suo, insomma, al di là del talento. Totti ama Roma e ama giocare con quella maglia, un po' come un uomo e ama giocare, che ama la propria moglie e non vede l'ora di tornare a casa alla io credo moglie. Che ami giocare a calcio. Al di là dei soldi, che adesso non sono tantissimi quelli che piglia, cioè non è una bieca questione di grano quella che lega Totti comunque al campo. Io credo che sia davvero una questione di qualcos'altro. Lui nel corso degli anni, almeno da quello che abbiamo potuto leggere sui giornali, ha rinunciato a cifre importanti da sicuro squadre come... Non so se abbia fatto bene oppure no, perché alla fine resta questa domanda, resta questo punto interrogativo. È chiaro che è l'uomo che ferma il traffico a Roma, come scrive il Telegraph oggi in Inghilterra, è la bandiera, il simbolo, tutto quello che si vuole. Resta il rimpianto di non aver visto un giocatore così grande alla riprova di un altro ambiente che non fosse il suo, e questo è un argomento che si può contestare all'affermazione secondo cui Totti più forte italiano di sempre. Questo può essere un punto a sfavore. Leonardo Vicenza, buongiorno. Buongiorno, niente, intanto grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Niente, io, a parte in campo, che lo trovo grandissimo, Totti, inutile, l'ha detto anche lei, ma mi ricorda tanto come fuori dal campo e mi ricorda il campione come Scirea. La serietà, a me se... Mi ricordo come serietà, io parlo come mai polemico. È anche uno che voglio dire, ha una sua vena simpatica, una sua vena ironica. Sì, poi, no, ma io parlo proprio... poi è chiaro che è vero anche che in alcune circostanze, e questo lo sappiamo, ha perso la testa, ha sempre avuto comunque la tendenza un po' bullesca a farsi giustizia da solo, e questo è un difetto che ha sul campo. Poi non stiamo a santificare e a beatificare nessuno, è semplicemente un grande giocatore di pallone, e quello che abbiamo così buttato lì è semplicemente un gioco che non ha nessun fondamento, anche perché io resto convinto del fatto che i paragoni epocali tra epoche diverse non abbiano davvero nessun senso. È soltanto una suggestione, un gioco. Giuseppe Perugia, buongiorno. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione. Io sono, diciamo, bisogna fare una tara per il mio intervento, perché sono un antico tifoso della Roma, ma da 50 anni, da quando giocavano Losi, Pestrin. Ecco, allora, dove colloca questa Roma? Ma veramente sono rimasto sorpreso piacevolmente, perché mi aspettavo una prestazione di un certo livello, insomma, però ecco, dopo 4 minuti, quando c'è stato il rigore, ecco, mi immaginavo già un tracollo tipo Manchester United, insomma, ecco. Invece la cosa positiva è stata questa grande reazione, che secondo me è un aspetto da valutare, da sottolineare, insomma. Sì, ma questa Roma dove la colloca tra le grandi edizioni della Roma degli ultimi anni? Cioè la Roma rispetto alle altre? Beh, sicuramente senza andare alla Roma di Lidl, diciamo, a quelle, sì, a quelle più recenti. Ma appunto dico, secondo me tra diciamo 50 anni di tifo, chiamiamo tifo non esagitato, la metterei sicuramente a livello della squadra di Capello, ma forse anche qualcosina in più a livello tecnico, a livello anche proprio di prestazione, insomma. Resta da vincere, c'è quel piccolo passo da fare. Chiediamo a Paolo Condò, inviato prestigiosissimo della Gazzetta dello Sport, il nostro amico, se è d'accordo. Ciao Paolo. Ciao Carlo, siete degli assassini, dei killer, non potete fare quei Perché? Quei sondaggi, chi è il miglior giocatore? Ma lo so, ma che cosa scatena? Sì, ma secondo te? Siete veramente dei... Adesso mi devi dire la tua, adesso mi devi dire... ma no, è un gioco, ma è chiaro che non ha senso paragonare Totti a Meazza, no? Perché è uno sport diverso, allora, è un'epoca diversa. Vuoi organizzare quel gioco? Devi farti dare il numero della tessera del tifoso, che altro... Sei tifoso della Roma? Non puoi votare. Io non voglio essere tesserato. Sei tifoso della Juve? Non voglio essere non schedato. Puoi votare per Del Piero. Puoi votare per Baggio, però. Baggio trasversale. Baggio ha giocato dovunque. Appunto, trasversale. Chiaro. No, ma tu che dici? Cioè, dove lo collochiamo? No, io ti do una rosa. Ti dico Totti, Baggio, Maldini, Gigi Riva. Sì. Rivera. Sì. E invece la Roma dove la collochiamo? Nella sua storia? No, ma sai, nella storia recente, questa Roma diciamo che questa Roma ha le potenzialità per essere all'altezza delle altre che hanno vinto lo scudetto, perché questa Roma non ha ancora vinto lo scudetto. Esatto, tra il dire e il fare. E quella di Lidl me l'ha fatto. Tra il dire e il fare c'è di mezzo. Esatto, la Juve. No, ma questa settimana, insomma, chiedevamo, lo ripeto da tre giorni, chiediamo la misura delle nostre due più forti squadre italiane, no? Quella della Roma l'abbiamo avuta ieri sera ed è un'eccellente misura, però non dimentichiamo che la Juventus corre in questa Champions League con molta più pressione sulle spalle e quindi il compito al di là dell'avversario sarà più difficile anche per questo. Sì, però io resto ottimista, esattamente ero ottimista prima per la Roma, perché mi sembra che le nostre due grandi squadre abbiano fatto un salto di qualità quest'anno. Abbiano fatto un salto di qualità mentale. Allora, la Roma gode di un fatto che non è conosciuta, è nuova, è un fenomeno nuovo. In Europa i signorini hanno smesso con la buona abitudine di guardare il campionato italiano, chissà perché. Sì. Ecco, hanno smesso e quindi ci sono delle novità anche tattiche, come sono quelle proposte da Garcia l'anno scorso, che arrivano in Europa e sono sconosciute. Un giocatore come Nainggolan non lo conosce nessuno. Non lo conoscono in Belgio, che non hanno convocato i mondiali, ma ti pare che Nainggolan può restare fuori da una convocazione mondiale del Belgio? No, ma poi vedo anche Manolas, vedo giocatori di Iturb, non so in quanti lo conoscano, esatto, in giro per l'Europa. Ci sono un sacco di giocatori della Roma che si stanno affermando adesso, anche a livello internazionale, e quindi le altre squadre non le capiscono e si trovano a mal partito. Cioè, i Totti si meravigliano perché riesce a fare delle meraviglie come quella di ieri a 38 anni, però ci sono tanti altri giocatori che non conoscono, è chiaro che conoscono Maicon, conoscono certo. Keita e così via, però i Nainggolan, i Turbe, Florenzi, questi qui sono giocatori. Pjanic stanno imparando a conoscerlo, che è un gran giocatore. Gervinho è discretamente conosciuto. Keita è comunque un professore del calcio. Purtroppo è caduta la linea con Paolo Condò, vediamo se riusciamo a recuperarla dopo. Tutti convocati. Credo che la squadra rispecchia abbastanza il carattere dell'allenatore. E credo che quando si guarda una partita dell'Atletico Madrid, la cosa che viene messa in risalto è il fatto che è una squadra che si aiutano molto in campo, che sono legate molto tra di loro, che concedono pochi spazi e che hanno una forza mentale nel stare lì 95 minuti ad aggredire costantemente l'avversario a seconda delle zone del campo. E quindi credo che sia un merito dell'allenatore, che ha trasmesso queste sue idee in maniera vincente, perché l'anno scorso l'Atletico Madrid ha vinto la Liga. Recuperato al volo Paolo Condò a Madrid stasera, vedrà, racconterà e scriverà la partita della Juventus. Allegri va con la stessa squadra, Paolo, con la sua squadra. Sì, dovrebbe esserci soltanto Evra al posto di Asamoah come laterale sinistro, e c'è un dubbio ancora tra Ogbonna e Cáceres in difesa, mentre Llorente dovrebbe essere il titolare, non Morata. Morata prontissimo. Potrebbe essere Morata prontissimo. Sì, voglio dire, questa è la sua città, quindi. Certo. Tu vedi in prospettiva un problema Pirlo, no? Inter, devo dire veramente? No, se vuoi raccontami una bugia. Ti racconto una bugia? Mm-hmm. No, sì, io vedo in prospettiva, nel senso che Marchisio ha giocato benissimo in questo mese. Mm-hmm. Ha giocato benissimo, e questo che cosa può voler dire? Può voler dire ha un'alternanza. Guarda, una cosa che tutela molto Pirlo sono i precedenti con Allegri. Immagino che Allegri non abbia troppa voglia, certo, di essere rimesso, certo, nel tritacarne, a te non piace Pirlo, tu non vuoi Pirlo e così via. Sì. Però Pirlo c'è un'altra età rispetto a Marchisio, e soprattutto Pirlo mi sembra, mentre Totti, che è più vecchio di qualche anno, però ha perfettamente capito la necessità di riposare e anche tanto per essere poi al massimo della forma nelle gare che contano, Pirlo mi sembra ancora uno che vuole giocare tutte le partite. Beh, ecco, d'altra parte l'ha detto anche lui, no? Se mi chiamo in nazionale non gioco, mi incazzo, l'ha detto chiaramente. Esatto, e quindi sì, in prospettiva io qualche problemino lo vedo. Grazie Paolo. Ciao a tutti. Un abbraccio, grazie davvero Paolo Condò. Proseguo con gli ascoltatori con piacere. Dopo il giro delle 15 arriva anche Pardo, così chiacchieriamo insieme anche della giornata di Champions, perché insomma siamo partiti con la grande depressione. Adesso, ieri sera a Roma, Max da Genova: non condivido questo messaggio. Un pari rimonta fuori casa vale una beatificazione. No, non vale una beatificazione, vale una grande prestazione della Roma che ne segue, che viene dopo un'altra. Cioè la rotondissima vittoria con il CSKA di Mosca nel girone più difficile della Champions League, e con la prospettiva di giocare con un vantaggio significativo su Manchester City due grandi partite con il Bayern di Monaco. Bayern di Monaco che, torno a ripetere, ieri ha fatto una fatica pazzesca a vincere a Mosca, che non sarà un campo semplice, ma ci è voluto un rigore trasformato da Müller. Guardo le altre, vedo il Barcellona che perde, vedo l'Atletico Bilbao che è una costante ferita nel cuore del Napoli, sarà così fino alla fine della stagione. Vedo un sacco di squadre che stanno facendo fatica, quindi perché non provare ad essere quantomeno minimamente ottimisti adesso che è solo l'inizio di ottobre? Michele Foggia, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Niente, io volevo dire due cose su Totti. Credo che sia un campione certamente, non so se è il più forte. Mm-hmm. D'altronde la carriera l'ha dimostrato, insomma, è un fenomeno, è inutile a dirlo. Sì. Forse farei il torto a qualcun altro se dico che sarebbe più... No, ma sarebbe... Che sono juventino, non è facile dire. No, ma è difficile, anche inutile, no? È soltanto un gioco. È soltanto un gioco che peraltro, certo, l'ho detto, parte da basi sbagliate, perché i paragoni epocali non, sì, hanno senso. Cioè, oggi si gioca un calcio diverso rispetto a quello stesso in cui Totti aveva cominciato. Quindi è un'altra dimensione, un'altra velocità, un'altra intensità fisica, eccetera. Io veramente l'ho visto quando giocavo nella primavera, come a fare una partita con la primavera del Foggia, per cui l'ho visto già a 18 anni e già si parlava bene, insomma, io, cioè a 16 anni, meno a 18, perché a 18 anni già stava in prima squadra. Sì, certo. Per certo, cui ha mantenuto, certo, le attese. L'unica cosa, magari la prima parte di carriera, ecco, se avesse avuto la carriera di Del Piero questa prima parte, con qualche episodio, ecco, magari così un po' che... No, ma l'unica cosa è che quella che dicevo prima, cioè a me sarebbe piaciuto da morire vedere Totti alla riprova di un grande club, ma faccio per dire Real Madrid, perché Real Madrid l'aveva sul serio cercato per molti soldi, per molte volte. Però mi sarebbe piaciuto vedere la dimensione di Totti fuori dal suo ambiente, dalla sua città, perché è vero, da un lato è il simbolo indiscusso di un'epoca del calcio, del costume, della storia romana, di quello che volete, dall'altro lato per capire esattamente la dimensione di questo straordinario giocatore sarebbe stato interessante vederlo da un'altra parte, fuori da casa sua. Stefano da Prato, buongiorno. Ciao, ciao. Bene. Benissimo, tu? Senti, no, due cose. Uno, dimmene. Ho visto finalmente una squadra italiana che mi ha ricordato i grandi Sacchi, mm-hmm, andare fuori e giocare la partita e giocare a pallone, qualità, cosa, diciamo, che aveva, no? Oh. E poi ho visto un grande Totti, ho visto giocare grandi numeri 10 tipo Stivoli, Rivera, Baggio, Del Piero. Oh. Ora abbiamo Totti che ha qualche cosa in più. Beh, ora abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo ancora per poco. O lo cloniamo qualcuno, eh? Che lui prova piacere a giocare, ecco, prova piacere a giocare, credo che questa sia la sua, sì, grande. Ma questa è la la stessa sensazione che ho io, cioè uno per arrivare a 38 anni a, in quella condizione fisica vuol dire che è uno che prova veramente piacere a giocare. Poi un'impressione diversa io ce l'ho per altri giocatori. Cristiano Ronaldo ad esempio è uno che prova piacere a giocare, lo sappiamo, che lo vedi che, ma lo raccontano tutti come si allena in maniera ossessiva, come si allena in maniera maniacale, quanto ci tiene, quanto si fa il mazzo, eccetera eccetera, ma devi fare così, e nello sport di oggi non ti perdona niente. Vedi invece altri giocatori che fanno fatica a crescere, come quello che adesso gioca nel Liverpool, che a me piace molto come talento, ma che qualche volta sembra ti faccia un favore e non riesce soprattutto a superare certi limiti e certi difetti. Poi quanto alla Roma informato, Milan, di Sacchi, non esagererei. Quello che è vero è che la Roma per modo di giocare è una squadra molto europea, è una squadra molto europea, ed è una squadra che in queste partite può davvero trovare il suo campo preferito, che non è certamente quello delle partite come quella con il Verona, come quelle che verranno contro squadre più deboli che tendono a chiudersi eccetera. La Roma ha bisogno di prato come dell'aria che respira, ha bisogno di spazi, ha bisogno di poter andare in verticale. Per questo credo che sarà una grande partita anche quella di domenica a Torino. Stefano da Padova, buongiorno. Buongiorno signor Genza, niente, ha anticipato quella considerazione che volevo fare io, ovvero che credo che paradossalmente per la Roma la Champions League è un terreno un po' più fertile per delle buone prestazioni, quanto sono partite vere, finalmente si poi vede non un calcio ha, vero, non ha pressioni in... Al di là delle pressioni, francamente, io credo che difesa e centrocampo della Roma, se consideriamo gli infortunati, sono al pari delle grandi superpotenze di Champions League. Mm-hmm. Se vogliamo, forse l'attacco, paradossalmente, no, nel senso che se vediamo Real Madrid a Bale, Cristiano Ronaldo, PSG, Ibrahimovic, Cavani, Barcellona... Messi, Neymar, Bayern, sì, Robben, sì, Berlino, sì, no, ma non è inutile fare l'elenco, però, esatto, cioè, però per dirti un centrocampo come quello della Roma non ce l'hanno in tantissimi, cioè manca anche Strootman, ma poi io gente come Florenzi, come Pjanic, come questi qui, per giocare ad alto livello me li prendo tutta la vita. Secondo me sono dei signori giocatori, e anche questo è un altro punto: possono trovare in questa stagione europea anche una loro consacrazione, anche una loro dimensione più o meno definitiva. Può essere una grandissima occasione anche individuale per loro. Poi ripeto, la Roma ha il grande vantaggio in Europa di poter correre e di poter giocare grandi partite senza pressione sulle spalle. Questo a differenza di quanto accade in campionato, perché lì sono convinto che, al di là di quanto dice Paolo Liguori, la stagione non sarà sempre la stagione delle rose, delle fragole e dell'amore. Io credo che qualche pressione sulla Roma ci sarà, magari già da domenica. Ci fermiamo, 800240024, Bet Corner GR, poi Pardo. Quote e pronostici. Dopo l'ottimo 1-1 della Roma in casa del Manchester City, questa sera tocca alla Juve di Allegri, impegnata a Madrid nella tana dell'Atletico. Colchoneros favoriti secondo Sly per la vittoria del match di questa sera, con calcio d'avvio alle ore 20:45. L'1, la vittoria dell'Atletico, è quotata a 2:25, l'X è a 3:20, il 2, con il successo degli uomini di Allegri, è quotato 3:40. Interessanti anche le quote dell'under, quotato 1:55, e dell'over, quotato 2:30. Nello stesso girone dei bianconeri si gioca in Svezia, Malmo, Olympiacos. L'1, la vittoria dei padroni di casa, è quotata 3,75, l'X è a 3,30, il 2 invece è quotato 2,05. Interessante anche il match tra Basilea e Liverpool, valevole per il girone B. L'1, la vittoria degli svizzeri, è quotata 3,40, l'X è a 3,40, il 2 invece, con la vittoria della squadra di Mario Balotelli, è quotata 2,15. Big match invece all'Emirates con Arsenal Galatasaray, valevole per il gruppo D. L'1, il successo degli uomini di Wenger, è quotato 1,57, l'X è a 4, il 2 invece, con la vittoria dei ragazzi di Prandelli, è quotata 6. Questa era l'ultima delle quote 6 di oggi, noi ci risentiamo domani. Convocati. Io so le cose, le faccio, volo basso e schivo al sasso. Io senza Ferrero non ci so stare, dico la verità. Ma 800 24 00 24, numero verde. Franco Piantanini dal nostro autore, Roberto Scaltriti in regia, Claudia Schiattone in redazione, Carlo Genta sottoscritto. Adesso arriva Pardo. Mica male, c'è? È già arrivato, eccolo là. Ciao. Volo basso, schivo al sasso. Ma le tue risate, li vedo tutti seri. Di tutti seri, noi no. Con poco se campa, con niente se muore, è un'altra frase. Con poco se campa, con niente se muore, è un'altra frase calda, eh. Però vado a farsela tatuare sulla schiena. L'ho detto l'altra sera, sai, su WhatsApp puoi mettere la frase, no? Puoi mettere un tuo motto, no? Sì. Tipo, no, sì. Che passa solo WhatsApp, eccetera, eccetera. E tu l'hai messa? No, Presidente Ferrero ha quindi immagino che sia una specie di motto della sua vita: con poco se campa, con niente se muore. Con niente se muore. Non male, non male. Stavo leggendo i giornali inglesi. Totti, l'uomo che ferma il traffico a Roma. Totti Magic di qua e di là. Mi sono tirato addosso una discreta gatta da pelare, ma così per gioco, eh. Totti, più grande italiano di sempre, chi lo sa? Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Ma secondo te? Totti è magnifico. Magnifico. Tuo telefono no, ma Totti è magnifico, sì. Tuo telefono no, Pierluì. Tuo telefono no, riproviamo. Dicevo, mica male anche il Daily Mail su Balotelli. Titolo: qui non lo voleva nessuno. Svolgimento: era un attaccante in saldo. Stiamo parlando solo di un costoso rigorista, ma del quale a Liverpool non c'era bisogno, perché qui i rigori li calcia capitano Gerrard. Così adesso in difficoltà si trova anche chi più di tutti ha scommesso su Balotelli, il manager Rodgers. Finora Balotelli non è riuscito a fare la differenza. Questo un breve estratto di quanto scritto dal Daily Mail. E Luigi? No, ne afamu. Ma vedrete, abbiate fiducia. 800 24 00 24 è il numero verde. C'è chi scrive un sms del tipo: lontano da Roma Totti avrebbe potuto guadagnare e vincere il doppio, che i romani gli siano grati per sempre. Questo lo scrive un ascoltatore di Milano. È anche vero però che sull'altro fronte avrebbe avuto una vita calcistica, intendo, non così dorata, non così semplice. Totti a Roma è sempre stato il leader indiscusso, appunto l'uomo che ferma il traffico, è sempre stato il gioiello di famiglia. Altrove si sarebbe dovuto mettere in discussione, magari vincendo e guadagnando il doppio, questo sì. Poi c'è un altro ascoltatore che scrive: facile dire che la Champions è terreno fertile per la Roma dopo la partita, nessuno che l'abbia mai detto ieri. Non è vero, contesto, ieri ci sono le prove, l'abbiamo detto, abbiamo speso fiducia per la Roma, così come io mi sento, insieme a Paolo Condò che abbiamo sentito prima, di spendere fiducia per la Juventus, che questa sera gioca una partita a cartina tornasole, perché avremo una misura delle sue ambizioni europee. Allora, Pierluigi. Allora, ti dico una discreta misura dell'impotenza, sì. E non mi riferisco a niente di andrologico, sì. Sentire alla radio tu che dici Pardo ci sei e io non sto neanche in linea, è impossibile perché se non mi chiamano, ecco. Quello è veramente un segno di impotenza. Lo so, cosa posso fare? Cosa posso fare per te? Dimmi. Tu però solamente a volte scherzi, cioè, non è possibile. Ma te lo giuro. Tu mi fai la super cazza. Ma ti faccio la super cazza. Sì, Antani. Scappellamento adesso. Allora, però sentito tutto. Innanzitutto io ho previsto l'1-1, c'è un mio tweet di ieri alle 5 del pomeriggio. non giocate mai i miei pronostici, che non si becco mai, però ieri l'ho beccato e quindi fiero e rivendico. E rivendichi. Sulla Juventus che cosa oggi, guarda, a 5 e mezza cosa twitti? Guarda, mi sa che alla fine twitto il 2-1 per l'Atletico Madrid, ma non sono sicuro. Io penso sia una partita molto equilibrata e secondo, io ti ho detto, l'ho detto ieri, io buone sensazioni sia per la Juve che per la Roma. Poi non lo so, perché magari a Madrid, perché ho, diciamo questo, che io ho più stima per l'Atletico Madrid che per il Manchester City. Sì, anch'io. E poi è vero che ha perso pure il City la prima partita, ma l'Atletico Madrid l'ha persa contro una squadra più debole e quindi l'Atletico Madrid era veramente, si gioca tutto. Sì, ma poi comunque Pierluigi, alla fine il nostro spernacchiatissimo calcio, vediamo come va la Juve eccetera, ieri si era segnato Verratti un gol importante che ha permesso a, al Paris Saint Germain di battere il Barcellona, l'abbiamo? Questo gol? Thiago Motta dalla bandierina, Mancino a rientrare sul secondo palo, Verratti ai piedi d'oro, ma segna di testa con la difesa del Barcellona. No, lo faccio a mio figlio, visto che è nato già da quasi 7 mesi, non si è riuscito a dedicare ancora niente, quindi gli dedico questo gol alla mia ragazza. Dunque, gol di testa di Verrattino con dedica al, al bimbo e va bene. Dico, manteniamo pure la nostra depressione cosmica, no? Però alla fine no, vedo... No, aspetta, guardate, manteniamo la nostra depressione cosmica perché ci piace così, ci crogioliamo nella depressione cosmica. Io voglio invece mettere la bandierina, io e te, tutti avvocati, sul giudimento del calcio italiano. Sul? A costo, sul giro, sul, sulla svolta del calcio italiano, sul fatto che è tirato il vento. Io, guarda, me la... No, addirittura non penso che vinceremo la Champions o robe del genere, però secondo me il peggio degli ultimi anni è Alessandro. Ma sai, ma si può fare anche una Champions per divertirsi, per andare avanti. La Roma è quello che sta facendo, no? Gioca senza pressione, dicevo prima. La Juventus ne ha un po' di più di pressione in Europa perché lì ha dei risultati che se non raggiunge, diciamo, un ottavo di finale, per non dire un quarto, allora cominciano i processi, si parla di fallimento eccetera eccetera. La Roma gioca con un altro spirito nel girone più difficile che c'è. Però ti dicevo prima, manteniamo pure il nostro pessimismo cosmico, volendo, che avrà Giuseppe da Pescara che è già in linea e tutti gli altri, però vedo le altre e dicevo prima, il Bayern Monaco con un rigorino vince a Mosca, campo non semplice, ma 1-0, rigore di Müller. Tutte e due ieri. Punto, vedo il Barcellona che dopo aver vinto 1-0 con la Poel Nicosia perde 3-2 sul campo del Paris Saint Germain, vabbè, a Poel Nicosia Ajax nemmeno lo considero 1-1, a Poel Nicosia che comunque rimane in corsa, per dire. Il Chelsea che fa fatica vince 1-0 a Lisbona, Schalke 04 1-1 in casa con il Maribor, il Porto per grazia ricevuta nel finale sul campo dello Shakhtar, che poi giocavano a fin Kiev. Qui, siamo all'inizio dell'inizio, siamo il paese che sta andando meglio, siamo l'unico paese che non ha perso squadre, perché dal punto di vista del ranking UEFA, se tu retrocedi come è successo al Napoli non cambia niente. Sì. Ovviamente sappiamo che cambia per l'umore dei tifosi e tutto il resto, però da un punto di vista di ranking hai esattamente gli stessi voti. Quindi siamo l'unico paese che non ha perso squadre nei preliminari. Sì. E abbiamo cominciato benissimo fino a questo momento le coppe. Ora, io non credo, ribadisco, che possiamo avere le squadre per poter vincere la Champions League, però secondo me possiamo far molto bene, perché le nostre due squadre in Champions sono le due migliori d'Italia, lo stanno dimostrando anche in campionato. E le altre, secondo me, con questo campionato che ormai dopo 5 giornate ha tolto qualsiasi tipo di velleità da scudetto e sarà una lunga maratona per la conquista del terzo posto e dei posti in Europa League, secondo me può dare all'Inter, al Napoli, al Torino e alla Fiorentina le motivazioni per onorare anche l'Europa League, che non è un ferro vecchio ma è la Coppa UEFA, quindi è una Coppa che può essere divertente, può portare incassi e può portare godimento, che poi è la cosa più importante nel calcio, godere un po'. Sì, fa godere pochissimo invece l'Atletico Bilbao, che rimane una ferita aperta nel cuore del Napoli. Sì, ieri ha perso 2-1 col batte Borisov. Dai, adesso non diciamo che per favore. Ha perso 6-0 col Porto, quindi esattamente, esattamente. Questa dà la dimensione di quello che è stato un fallimento in piena regola del Napoli. Non mi venite a raccontare che l'Atletico Bilbao è più forte, per favore. Giuseppe Pescara, buongiorno. Buongiorno. Io sono tifoso proprio del Napoli. Sì. Volevo intanto rispondere a quei messaggi che sono arrivati di Totti. Da italiano credo che tanto di cappello a Totti e alla Roma, quello che stanno facendo. perché si stanno comportando benissimo. Ma perché ci stanno facendo divertire alla fine? Ci stanno facendo divertire. Per quanto riguarda Totti, credo che bisognerebbe davvero prendere esempio da Totti per quello che ha fatto. Il fatto che sia rimasto a Roma, il fatto che non sia andato a giocare in una grande squadra. Però è un po' quello che dovrebbero fare tanti giocatori. Cioè? Siamo imbottiti di stranieri. No, dico proprio il calcio italiano. Siamo imbottiti di stranieri perché è una logica economica e sì, basta. Resta e quindi il fatto, questo... Sì, può essere. Questo è al contempo un grandissimo valore aggiunto e un limite. No, dicevo prima, Pardo, che resta sempre la grande. Insomma. Ci rimane la voglia di vedere la grandezza di Totti misurata, cosa che non avremo mai. A me non rimane la voglia. Ma no, io penso che Totti si può discutere sulla sua pigrizia, sul fatto che non ha potuto lasciare Roma, e sicuramente andare fuori da Roma gli avrebbe portato gloria, gli avrebbe portato magari un po' di concorrenza in più, però l'ho visto qualche volta in più in panchina rispetto alle volte in cui è stato a Roma. Ma come ho ripetuto 150 volte, nel momento nel quale noi amiamo il calcio romantico e lo amiamo tutti e diciamo che non ci sono più le bandiere, sì, diciamo che bello che era una volta alle 14:30 col pallone di cuoio, poi di fronte al signor Totti, al signor Del Piero, al signor Baldini, al signor Piazzanetti, dobbiamo semplicemente alzarci in piedi e battere le mani, perché è quel valore della fedeltà, oltretutto in questo caso alla città e alla squadra per la quale era tifoso da bambino, quindi ha un ulteriore no, nel senso che non è che uno che è andato a giocare da un'altra parte si è trovato bene e ci è rimasto, è il suo sogno. Poi probabilmente lo psicologo di Totti sul lettino, parlandoci un'ora e mezza, scoprirà nella sua psiche che c'è stata una componente magari di pigrizia, che si è trovato bene, che non voleva. Certo, ma che certamente ha fatto una vita più facile, ha fatto una vita calcistica più facile, no? Ha vinto di meno. Se Bergoglio, e chiedo scusa per la citazione, siamo noi per giudicare su situazioni molto più complesse, ma veramente chi siamo noi per giudicare che cosa c'è stato dentro la testa di Totti? Io lo celebro come celebro. Non stiamo dicendo. Mazzini, Garibaldi, cioè sono quei personaggi che rappresentano nella. Adesso si sta a allargare tu, però. Mazzini e Garibaldi, dai. Mazzini, Garibaldi, Cavour, sono icone nazionali, amate da tutti. Guarda, anche secondo me, al di là della rivalità, anche il tifoso della Lazio o anche il tifoso del Torino per Del Piero o il tifoso dell'Inter per Del Piero ne riconosce la grandezza. Sono bandiere discutibili, ma poi, è gente che ha dedicato la propria vita a un club solo. Poi Totti è un pochino più divide, perché per esempio c'è chi scrive, è chiaro che poi hanno ricordato come un grande campione non fa lo sputapolse, non dà il calcio a Balotelli, però io ho detto allora Zidane ha fatto, non è un grande campione, ma poi c'è chi scrive Totti grande giocatore, grande pagliaccio, ha mostrato le quattro dita a Tudor, al ritorno ne ha presi 5, nessuno della Juve gli ha fatto le 5 dita, ma è normale, dai, che sia così, è normale che sia così. Aggiungo al file, perché so che al file, sì, che aveva fatto arrabbiare i tifosi della Lazio, che pare che dopo il famoso derby in cui la Lazio rischiava la Serie B sia andato sotto la curva a fare il cenno, no, il pollice verso, come dire, andiamo in B. Questo fa parte del carattere di Totti, di un carattere sicuramente guascone, sicuramente molto romano, che ama lo spottò, però secondo me è anche autoironico Totti. Alla fine non è uno, cioè quella maglietta vi ho purgato ancora, insomma, i laziali ovviamente se lo sarebbero mangiato vivo, però a me ha fatto sorridere, credo a molti altri, assolutamente, ed è la stessa cosa che possono fare i laziali al contrario, ma chiaro, credo veramente che non sia il calcio, non bisogna complicare il pane, non bisogna complicare il calcio, sì. Noi veniamo dalla puntata di Ferrero dell'altro giorno, che sarà esagerato, vabbè, tutto quello che volete, però il buono che c'è lì dentro è che è un gioco, e quindi si rosica, come si dice a Roma, sì. Si rosica, si festeggia, ci si prende in giro. Ma dai, ma poi si rosicano anche gli inglesi che ieri hanno fatto il tweet, non aveva mai segnato qui, adesso, tweet revenge, dai, ma è bello così, Simone d'Agrigento, no? Ci sbagliamo? Sì, sono io, ciao. Ciao. Sono Simone da Ribera, precisamente, la città di Miss Italia 2014. Upper Bacco. Sì. Sì, si tratta di questo. Vorrei discutere del dualismo fra Llorente, tra Fernando Llorente e Alvaro Morata, essendo io tifoso bianconero. Sì. E stasera giochiamo contro l'Atletico, là al Vicente Calderon a Madrid. Sì. Sarebbe secondo me più giusto, per le scelte di Allegri, schierare in campo Morata, che già conosce i suoi ex compagni come avversari stasera, ed è secondo me anche un po' più in forma di Fernando Llorente. Beh, giocava nel Real, ma al di là di quello, anche Llorente riconosce, eh? Anche Llorente sì. Venuto via un anno prima, però insomma. Allora Pier, il discorso è interessante, ci starebbe un avvicinamento, perché Morata è in grande condizione, però io capisco Allegri, sai, no, il vecchio detto, sai qual è, squadra che non si tocca, no? Sì, ma poi cioè, vai così, vai con questi. Mi viene sempre in mente la lezione di Ancelotti, che mi disse all'indomani della Champions vinta ad Atene, si parlava, io provocatoriamente gli avevo chiesto, perché non era stato un grande periodo di forma di Maldini, se avesse pensato in certe partite di sostituirlo, e lui mi disse, chi glielo dice a Maldini? Ma non perché Ancelotti non avesse la forza per poterlo dire a Maldini, ma perché evidentemente nella visione di tanti grandi allenatori c'è la considerazione che ci sono dei giocatori speciali che hanno un'abitudine, che hanno un'esperienza e che possono fare cose incredibili nelle grandi partite. Ora è chiaro che il caso di Maldini è diverso da quello di Llorente, perché Maldini è il calciatore speciale se ce n'è uno, no? È il calciatore esperto se ce n'è uno. Però io credo che a livello di esperienza Llorente si faccia preferire, e penso che partirà con Llorente, anche se Morata chiaramente è un ragazzo che già ha giocato in Champions League, ha segnato. Insomma. Sì. No, ma poi Pierluigi, è difficile anche cambiare una squadra che fino adesso è stata praticamente perfetta, no? Appunto. Perché io credo che in un allenatore ci possa essere anche questo sottile timore di modificare qualcosa che funziona, magari a giochi in corso, magari quello che vuole, Llorente non ha ancora trovato il gol, anche se è uno che si sta sbattendo un sacco, e buona parte della grande stagione che sta giocando Tevez è anche merito del mazzo che si fa Llorente là davanti, di sponda, di fisico, eccetera eccetera. Poi vediamo, lo chiedo anche a te, l'ho chiesto prima, voglio confrontare le risposte a Condò. Vedi un problema Pirlo all'orizzonte, sebbene lontano o ipotetico? Ipotetico, sì. Se Pirlo non fosse un calciatore speciale, non vedrei problemi. Nel senso che la ricchezza del centrocampo della Juve e la risposta che il centrocampo della Juve ha saputo dare all'assenza di Pirlo è solo una buona notizia, è solo eccezionale. È chiaro che quando rientrerà ci potrà essere anche il dubbio nella testa di Allegri. Un dubbio legittimo, però essendo un dubbio che riguarda uno dei più grandi centrocampisti della storia recente del calcio mondiale, è chiaro che farà notizia. Quindi, se Allegri avrà questo dubbio, ce lo potrà avere. Sì, questa cosa potrà... poi magari potrà anche essere, si diceva sempre prima, vagamente condizionato dai suoi trascorsi con Pirlo, o no? Sì, potrebbe essere. Potrebbe essere, anche se io ribadisco quello che dico da metà luglio. Cioè, che io su questo sono assolutamente certo, Allegri non ha mai avuto un problema con Pirlo. Allegri ha semplicemente avallato la scelta della società, del Milan, di liberarsi di Pirlo, di non accettare la sua richiesta che veniva considerata economicamente troppo esosa, e quindi alla fine ha solo avallato la cessione, che per carità non è un dettaglio, ma non ha mai avuto, e questo lo so praticamente per certo, non ha mai avuto un problema con Pirlo. No, un problema personale no, magari un problema calcistico sì. Ma neanche. Tanto. Cioè, di fronte a un giocatore che sembrava onestamente un po' in calo, e lo sembrava a tutti, io ribadisco sempre che non ci sono stati i caroselli di piazza dei tifosi del Milan che protestavano per la cessione, per il mancato rinnovo di contratto al suo trasferimento alla Juve. Non c'è arrabbiato nessuno, perché in quel momento lì Pirlo sembrava che stesse legittimamente un po' calando, e a quel punto Allegri ha semplicemente detto alla società, va bene, trovo un modo diverso per giocare. Sì. E questo è quello che è successo, secondo me la fredda cronaca è questa, caricare questo rapporto di Pirlo-Allegri. Poi certo, non è un fedelissimo, ok. No, non è un fedelissimo. Allora, il discorso sta così, Pirlo adesso era infortunato, quindi non c'è materia del contendere, sta rientrando, non è stasera a Madrid, potrebbe rientrare con la Roma perché è pronto. siamo al discorso di prima, è un centrocampo, soprattutto Marchisio, che sta giocando molto bene, è tornato Vidal, doppietta l'altra volta, eccetera eccetera, è un centrocampo che sta funzionando così come tutta la squadra. A quel punto Allegri potrà domandarsi: lo faccio rientrare adesso oppure no? Dall'altro lato potrà essere vagamente condizionato da questo pregresso. Non c'è mai stato nessun contrasto vero tra Allegri e Pirlo, però l'immaginario collettivo, che è l'allenatore che fa per due volte fa fuori Pirlo, questo retropensiero potrà esserci, magari in Allegri, magari in opinione pubblica. Tutti convocati. Ma no, per quel che riguarda il gol di Godin, insomma, mi fa piacere a questo punto dire che è stato l'ultimo gol che ho preso anziché l'ultima parata che ho fatto, no? Per cui significa che dopo quel gol, insomma, c'è stato molto altro che ho potuto fare e col quale ho potuto farmi apprezzare in campo. Conta preocupado porque me enfrenta a mí. Está claro de que la Juventus en este inicio de temporada está demostrando una virtud, que es la solidez defensiva, y bueno, es algo que hay que destacar. Buffon stia attento, perché l'ultimo gliel'ho piantato dentro io, non si sa mai che stasera ci rifaccio l'ultimo gol preso da Buffon, ricordiamo quello di Godin ai mondiali, da lì non ha più beccati. 800 24 00 24 è il numero verde. Poi, tra l'altro, strano il colore della maglia della Juve stasera, stasera gioco con un improbabile verde. Stavolta io Ludogorets Real Madrid non me la vedo, sono venuto a vedermi un bel concerto di musica bulgara, così dall'iPad posso vedermi la partita del volley delle azzurre di stasera contro la Zerbogia. Brave, brave, bravissime. Ma mi sa che c'è una pausa. È arrivato il momento di parlare a tutti del volley, anche al teatro bulgaro. Vado, prendo il microfono. Prova, 1, 2, mi sentite? Mondiale volley. Carletto, ciao, Carletto Genta, mi hai spedito in Bulgaria a vedere Ludogorets Real Madrid, ma adesso io mi sono impossessato del microfono del teatro dell'opera qui a Sofia, dove Ludogorets giocherà con Real Madrid stasera. Tu mi hai mandato a vederla e non me ne frega un bel niente, perché io riuscirò lo stesso a vedermi la partita delle ragazze che si sono trasferite a Bari per la seconda fase, che inizia stasera, la seconda fase del mondiale di volley. E allora, vuoi sapere che atmosfera c'è a Bari? No, io lo so che non te ne frega niente e te lo faccio ascoltare lo stesso. Invece ce lo racconta Marco Bonitta, il nostro CT, che ti entrerà nella testa come un martelletto da qua fino al 12 ottobre, giorno della finale. Bari ci ha accolto benissimo, ci sarà un pubblico caloroso che ci darà una mano, perché queste sono le partite che contano, saranno 4 partite che definiranno il nostro futuro, quindi credo che si vedrà di che pasta siamo fatti e speriamo di essere fatti di buona pasta. Ora un attimo d'attenzione, chiedo ancora al teatro un attimo d'attenzione, prego. No, state seduti, perché volevo leggervi una lettera. La lettera di Maurizia Cacciatori, una delle grandissime stelle della pallavolo italiana, che sul Corriere dello Sport carica così le nostre ragazze per stasera. Avete visto che cuore quest'Italia? Dite la verità, in quanti se l'aspettavano a livelli così alti dopo tutti i problemi di quest'estate? Secondo me pochi. Chi le conosce come me, invece, sa che dentro hanno un patrimonio raro e bisogna solo saperlo tirarlo fuori. Ed è quello che le ragazze hanno fatto fino adesso, e da stasera, fase 2, l'appuntamento è sempre lo stesso. Caro Carlo, tu e tra i tuoi tatuaggi ora ti tatuerai anche questo. Ore 20, Rai Sport 1, divano, pizza, birra e altro che Juve e Atletico Madrid, quella roba che c'è stasera della Champions, che non ce ne frega niente. Ma a proposito delle Azzere, una squadra con dei buchi, dice Bonitta, Carlo, senti. Partita dal punto di vista tecnico, una partita tipica quando si affrontano squadre che hanno un paio di giocatori molto, molto forti in attacco, ma con alcuni buchi, chiamiamoli così, derivati da una qualità che non è costante. Quindi dovremo limitare certamente un paio di giocatrici, dovremo cercare di metterle in difficoltà nella distribuzione. Comunque hanno un palleggiatore di buon livello, le abbiamo già incontrate, le conosciamo, ma anche loro conoscono noi, quindi non sarà certamente una partita facile. Speriamo che se lo tengano in Bulgaria, Piantanella, speriamo che se lo tengano là, al concerto di musica bulgara. Carlo, magari in prigione da qualche parte. Senti, Carlo, dimmela. Carlo, no, io voglio dire, io stimo tantissimo Piantanita, ma questa gag, questa buttata dei mondiali di volley è una delle cose più raccapriccianti, terrificante. No, si impegna in questa cosa, terrificante. È terrificante veramente. Solo si fa domande e risposte. È un talento tremendo. Veramente, io lo stimo perché Piantanita, usciamo da sta gag, dai, no? Fallo per noi. Fallo per noi. Torna a casa. Ecco. O torna in te. Senti, c'è Gianni da Verona che domanda se sarai tu il telecronista delle tre pere che prenderà la Juventus. No, io faccio domani sera Italia 1 anche in HD Torino-Copenaghen. Torino-Copenaghen. Quindi non sarai tu il telecronista delle tre pere che prenderà la Juve? No, sarò il telecronista delle tre pere che prenderà qualcuno, magari non la Juve, magari andrà in Madrid. Non so, partita molto equilibrata. Ho detto, io alla fine mi sa che punterò sul 2, punterò in questo giochino, punterò sul 2-1 dell'Atletico Madrid. No, secondo me non perde. Spero ovviamente di sbagliarmi. Non perde. Non perde anche se la maglia verde è raccapricciante, non è un buon segno. Non è un po' Ana Saiz, con la partecipazione straordinaria di Radio 24, tutti convocati, che tra l'altro sarà a Genova, lo ricordo, dopo domani. Speriamo che ci sia il sole. Dove mi porti a mangiare, me lo dici dopo, Massimo? Lo dico dopo, appare veramente che ci regalino questo gommone da 20 metri. No, purtroppo no. No, con sopra Allegri che fa lo skipper. Ti ricordi? Guarda, che ha detto quella volta: voglio andare col barchino. Ho il barchino. Dopo Milan Pesce era la Biafo. Sono mia come quelli che a 70 anni vogliono ancora fare i predicatori. Io voglio andare col barchino. Massimo Palermo, buongiorno. Buongiorno, forse in queste gommone potremmo metterci Zamparini, che esonera un po' tutti e butta tutti a mare. Sì. Si butta a mare. Niente, io volevo rispondere a quel tifoso che diceva delle trattare, che noi per avere questo campaninismo abbiamo una squadra in meno in Europa, per non dare anche, diciamo, tra parentesi, importanza alla Coppa UEFA, siamo diventati un campionato piccolo, quindi noi dobbiamo tifare per le squadre italiane. Ma no, questo lo contesto, Massimo, dobbiamo tifare perché ci pare, e io rivendico il diritto al gufaggio. Sì, nel senso che non è che quando dominavamo in Europa eravamo tutti italiani, fratelli. Capito? Cioè non è che nell'anno di Borussia Juve, sai quanti ne ho conosciuti di tifosi dell'Ajax, del Borussia, del Liverpool. Sulla Coppa UEFA sono d'accordo. Nel senso che quello è un fatto proprio di provincialismo, ma forse abbiamo un po' migliorato, dai. No, in che senso sei d'accordo? Cioè sei d'accordo nel tifare tutti uniti per le squadre italiane? No, io tifo per le squadre italiane. Vabbè, ho capito, ma io perché lavoro in televisione, mi fa piacere, ci conviene a tutti, siamo felici, mi sento investito, insomma conosco tifosi di tutte le squadre e quindi mi fa piacere se riusciamo ad andare avanti. Va bene, però il sacrosanto diritto al tifo contrario, al gufaggio, esiste anche in Europa League. Come disse a Badantuono tanti anni fa in una battuta indimenticabile durante il controcampo, era un anno che Milan non era nelle coppe, dice: non mi sono mai divertito, non ho mai vinto così tanto in Europa come quest'anno che le sto occupando tutte. Certo. Quindi, quello, questo fa parte. Ma poi domani sarà pieno, a Milano sarà pieno di tifosi del Karabag, questo lo sai perfettamente, Pierluigi. Io vado a Torino, però, io vado a Torino. No, capito, però niente, gioco al Karabag. Al Copenaghen. Sì. Karabag che attenzione, perché è molto temuto da Mazzarri. Karabag è un avversario difficile da affrontare, fisico e carico. Gli esterni sani sono solo Nagatomo, D'Ambrosio, Jonathan e Dodò non sono disponibili per questa gara, siamo coperti. D'Ambrosio ha fatto bene, la partita contro Karabakh sarà simile a quella del Dnipro, poi spero di avere maggiore certezza il venerdì, così dice Mazzarri, e glielo auguriamo di avere maggiore certezza venerdì, perché oggi ne ha pochine, poveretto. Partita con Karabakh che rischia di diventare, che potrebbe essere una clamorosa buccia di banana, Ma sì, poi, attenzione, visto il momento dell'Inter. In questi anni in Europa League soprattutto abbiamo visto spesso squadre italiane faticare con avversarie molto modeste, quindi per me dipende molto dall'approccio che l'Inter avrà alla partita. Credo che il fatto di aver perso contro il Cagliari darà all'Inter un'ulteriore motivazione, oltre al fatto, questo sì, di poter, vincendo, mettere il girone in discesa. Io non pretendo che le squadre italiane debbano giocare con tutti tutte e sei le partite del girone di Europa League. Capisco benissimo che ci sono turnover da fare, turnazioni utili, però appunto, secondo me, se tu parti bene in Europa League e riesci a metterti la strada in discesa, come potrebbe succedere alle italiane in caso di vincere domani, perché ricordiamo hanno vinto tutte tranne il Torino, che ha pareggiato la prima partita, a quel punto poi magari verso la quarta, quinta, sesta partita del girone puoi fare anche quel turnover che è necessario, e poi a febbraio-marzo vedrai dove sei in campionato e eventualmente fai pure dei ragionamenti, fai pure dei calcoli, ma giocarla con le seconde linee, come per esempio fece Mazzarri qualche anno fa a Napoli, secondo me è provinciale, io la penso così. Sì. Ma quest'anno non sta succedendo, devo dare atto che insomma... Adesso siamo solo all'inizio, dai Pierluigi, abbiamo visto un giro di pista. Ho visto la prima giornata, io ho commentato in Napoli, la prima giornata c'aveva un attacco che era migliore, ha fatto il turnover in campionato. Ma com'è giusto che sia, perché insomma sono squadre che a cosa possono ambire, al terzo posto va bene, lotteranno per il terzo posto, sono convinto l'Inter e Napoli. E magari anche il Milan, però è chiaro che vincere l'Europa League darebbe un'altra dimensione, un altro sapore, un altro senso alla loro stagione. Questo è evidente, l'abbiamo detto molte volte. Ci ricordiamo che da quest'anno c'è anche il posto in Champions per chi vince Europa League, a maggior ragione. A me questa cosa di Piantanide è piaciuta, scrive un suo parente, credo. Piantanida forever, viva il volo, tale Stefano sarà suo zio. Piantanida potrebbe anche canticchiare l'elenco telefonico, ma ci sono ancora gli elenchi telefonici? Non lo so, bella domanda. Sono ancora? Credo di chi no. Chi lo può sapere? Matteo Caccia la saprà. Matteo Caccia, non lo vedo. Sì, questi qui un po' tecnologici, un po' moderni. Tutti convocati. Bisogna cercare innanzitutto di arginarli sui calci da fermo e poi soprattutto giocare, secondo me, domani una partita molto tecnica. Perché è una squadra che ha una forza mentale incredibile, che ti dà grande pressione e soprattutto è una squadra che, come ho detto prima, a livello agonistico ti può creare delle difficoltà. Tevez è un giocatore straordinario, donde más cerca esté de portería mejor rinde, tiene un juego corto, sobre todo hacia adentro, muy difícil de sostener. Intentando obviamente no dejarlo pensar, no dejarlo recibir y ahogando su primera intuición, que es venir hacia adentro. Non far pensare Tevez non mi sembra un problema, nel senso che Tevez gioca con meraviglioso istinto, cioè non mi sembra un giocatore particolarmente riflessivo, lui va dove lo porta anche la straripante condizione che in questo momento ha e gli spazi che Llorente sa aprirgli e il suo talento. Altro che Atletico Juve stasera al Binoleffe Arezzo, recupero di Lega Pro. Se l'Arezzo vince, balza al comando e via verso la promozione. Sembra un po' presto, caro ascoltatore. A proposito, ultima retrocessione anno 2006-2007 anche per colpa delle penalizzazioni post calciopoli. L'allenatore Conte, poi esonerato, al suo posto Sarri, a sua volta esonerato per far tornare Conte, quando l'allenatore non è tutto, scrive un ascoltatore anonimo. Giuliano, Roma, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io volevo parlare di Totti. Io sono un tifoso della Lazio però secondo me per il sondaggio che ha fatto, che ha detto lei, sì, secondo me è uno dei più grandi. Tutto uno dei più grandi sicuro. Cioè, sicuro, no, il più grande. Chiedo scusa, il più grande. Perché secondo me ieri in quell'azione, in quel gol c'è sta tutto quanto lui, c'è l'intelligenza, c'è la scelta del tempo e poi c'è la classe. Proprio, cioè, come posso dire, cristallina, ecco. Sì. Questo forse è la parola giusta. Assolutamente, no, ma io sono d'accordo. Qui adesso il signor Straiuve mi dice Totti come Mazzini, Garibaldi, Cavour, infermieri, ma anche Del Piero ho detto. Però chissà, il signor Straiuve si è scordato di citare Del Piero fra quelli che secondo me sono come Mazzini, Garibaldi e Cavour. E no, ma vedi, l'ascoltatore, questo ultimo ascoltatore che è della Lazio, ci racconta esattamente quello che è, insomma, cioè di fronte al talento non è che c'è tanto da discutere sulla maglia, sul colore della maglia. Totti è un grandissimo, ha avuto una fase, secondo me qualche anno fa, di appannamento e stava dando la sensazione che la sua carriera stesse logicamente e legittimamente un po' impallidendo, e invece è clamorosamente. Ecco, io credo che forse è la cosa migliore che ha lasciato Zeman alla Roma di questi ultimi anni. Io credo che Zeman abbia prolungato la carriera di Totti. Tu dici? Ha sbagliato tutto. Tu dici? Nel 2012, lui ha sbagliato nel 2012, ha fatto malissimo alla Roma, non ha capito delle cose, l'ha anche riconosciuto anche l'altra sera. Però secondo me su Totti ha avuto un influsso, un effetto benefico, e gli ha ridato energia. Poi magari sarebbe successo anche con un altro allenatore. Ma mi sembra un effetto un po' lungo, no? Cioè, mi sembra un effetto. Ma il giocatore è pazzesco. È pazzesco. E ieri sera, fra l'altro, la partita l'ho vista con Cassano, posso dirlo tranquillamente. Insomma, posso tranquillamente citare anche la sua non sorpresa, la sua ammirazione. Perché insomma, vedere un giocatore, al di là del merito sul gol, che è importante, lo sottolineava giustamente l'ascoltatore di tutto della Lazio, ma insomma, in assoluto la presenza nella partita, la qualità di tante giocate, l'ispirazione che ieri sera ha avuto è. Ma puoi riportare un giudizio di Cassano su questa Roma? Non lo so, ma adesso non mi ricordo. Non è che, ti ricordi non è che ha detto? Gli ho fatto un'intervista. Abbiamo visto. No, ma ti ho capito. Avrà detto forte questo, scarso. Ieri sera gli è piaciuta molto. Ma sì. A chi non è piaciuta? Deludente però il City, Pier. Tutte le volte che lo vedo in una partita come questa, c'è qualcosa che non mi piace. Allenatore compreso. Allora, io ti dico questo. Alla prima giornata il CSKA è stato asfaltato e ieri ha perso 1-0 col Bayern sul rigore. Il City alla prima giornata ha perso all'ultimo minuto a Monaco di Baviera contro il Bayern e ieri ha debutto. Forse ci sono anche i meriti della Roma. Stasera vediamo il Malmo se perde con l'Olympiacos oppure no. Lo stesso discorso potrebbe valere anche per la Juve. Cioè, io dico che appunto, io so che tu la pensi come me, siamo in una fase adesso culturalmente di pessimismo su tutto. Sì. Vedo dei segnali di crescita. Cioè, io credo che Juve e Roma sono due squadre in questo momento molto competitive in giro per l'Europa. Sì. Ma basta Roma, guardare le altre, ma poi stanno bene, sono due squadre che hanno salute, che sono in salute. Ho fatto un tweet, sembravo il divino Telma, ma è praticamente certo che Roma Manchester City sarà decisiva, nel senso che se voi fate una valutazione proprio aritmetica, la Roma resta a 3 punti di vantaggio, quindi a meno di cose clamorose non il vantaggio. Adesso il City ha 2 partite col CSKA e poi ovviamente una con il Bayern e poi verrà a Roma. La Roma ha le 2 partite col Bayern, una col CSKA. È molto molto difficile che tutto si possa decidere prima dell'ultima giornata, quindi Roma-Manchester City al 99% sarà decisiva. Bisognerà capire se la Roma dovrà giocare per vincerla oppure, come è probabile. Beh, ma sai, adesso la Roma comunque ha nel mirino 2 grandi partite con il Bayern di Monaco, da giocare nelle migliori condizioni possibili di spirito, di emozione, di emotività, insomma sono le classiche 2 partite che è bello andare a giocare in questa situazione, no? Ultima cosa per la serie noi che facciamo geoscientifico, la Roma potrebbe anche perdere tutte e 2 le partite col Bayern, ma vincendo a Mosca ha la certezza che se batte il City passa al turno, potrebbero passare 6 punti se fra questi sei punti ha maggior ragione, no? Quello che stavamo dicendo, proprio per quello, insomma, due partite con la più forte squadra d'Europa o giù di lì, da giocare tutto sommato con il cuore leggero. Mimmo Napoli, buongiorno, poi chiudiamo. Ciao Mimmo, dimmi. Senti, a parte che io vi ascolto tutti i giorni, togliamo questa. Ieri ho visto la partita dell'Atletico Bilbao e ti devo dire la verità, mi è venuta tanta tristezza, tanta amarezza. Te capisco. Avremmo potuto avere una terza squadra in Champions, bastava un pochettino più di impegno sia in campo e sia fuori, perché secondo me non c'era nemmeno tanta volontà di andare, diciamo, di superare il turno. Ma come no? Sulla volontà non ci posso credere. Sul fatto che sia stata preparata malissimo, scusami. Sì, dimmi. Il presidente, se avessimo passato il turno, doveva mettere mano al portafogli, doveva comprare altri giocatori. Ma entravano anche dei quattrini. Entravano anche i quattrini, però, Mimmo. Sì, ma lui è un buon calcolatore, Carlo. Lui tra il dare e avere. Sì, ma non. No, questo, guarda. No, tu puoi pensarlo. Io non riesco a crederci. Dimmi, Pier. Quello che si può recuperare è il contrario, cioè di non aver fatto l'investimento come succede spesso, prima del preliminare. Perché probabilmente se avesse fatto degli investimenti prima del preliminare, forse tu non lo passavi. Tutto qui. Non è detto, perché poi comunque la partita è stata preparata male, magari facevi l'investimento prima del preliminare, poi tac, uscivi lo stesso perché è un doppio confronto nato male, nato storto, e ti trovavi ad aver tirato fuori i soldi per niente, quasi, non lo so. Io però a questo discorso che non ci si voleva andare in Champions League da parte di qualcuno a Napoli, non ci credo, non riesco a crederci. Pier, ci sentiamo domani, Sì, ciao. Vabbè. ciao. Grazie a Pardo, naturalmente, Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Sacatritti in regia, Claudio Schiattoni in redazione, ciao. Io sono le cose, le faccio, volo basso e schivo al sasso. Sì, è proprio qui che si vince la partita, proprio in questo punto, sul green. Ma prima lo devi vedere. Il sole sarà là al mattino e laggiù nel pomeriggio. La cosa buffa è che i fili d'erba seguono il sole. Nello stesso path, la palla andrà in una direzione al mattino e nell'altra il pomeriggio. Da una parte al mattino, dall'altra il pomeriggio. Hai capito com'è? Eh sì, un campo da golf per un giocatore è una vera punizione. Vive e respira tale e quale a noi. Credi che Giuna possa vincere? Sì, se riesce a trovare l'autentico swing. Tutti convocati.